la finanza, stava arrivando la balanza. Senti dall'aria una melodia. 23:48 minuti primi, siamo in diretta ancora una volta. Ci sei? Pronto? Pronto, prontissimo. Ci sono. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Ci sentiamo già, insomma, ci risentiamo dopo un po' di tempo, finalmente sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e per fortuna ci vedremo. Ci vediamo fra poco. E ci vedremo con tutte le compagne e i compagni, gli ascoltatori e le ascoltatrici, con tutte le creazioni necessarie del caso, in quella della ex SNIA sabato prossimo. Pavel, che diciamo sei un pochino stonato, no? Forse rispetto alla serata, ma ti abbiamo voluto comunque, o forse non ti senti affatto stonato poi dopo tutto. Stonato nel senso, no, anche canti stonato, quello non ci interesserebbe, stonato nel senso fuori proprio dalle line up che sono previste, dai generi, diciamo, però credo di no. Magari no, ce lo dici tu. Io sono fuori dal tunnel del divertimento. No, dai, bello, sono contento. È più bello quando è vario, anche perché poi quei concertoni tutti un genere, alla fine finisce che al secondo gruppo sta certo. già sentito, invece è bello che sia abbastanza vario. Tra l'altro stavo sentendo l'intervista e io ho pensato che nel 2000 sì. andai da, io sono di Mola di Bari, a proposito sì. di periferie, sì, sì, di sì. province, così sì. andai a Rimini col treno con due ragazzi che non conoscevo, più grandi di me, per andare a vedere l'Independence Day. In realtà era a Bologna, ma il giorno prima ci fermammo a Rimini sì. a Rock Planet, credo Pinarella di Cerve, comunque un paesino della Romagna, della costiera romagnola, sì, per vedere i Motor Psycho. E in spalla c'era Niverdena, perciò mi sono ricordato, vedi, che vedi, Niverdena, vedi. Io l'ho visti nel 2000 quando erano veramente pischellini. No, io mi posso vantare di non averli mai visti. Però c'avevo un disco, c'ho un disco, l'ho anche mandato, dai. Ah, l'ho fatto anche delle cose buone, sì, dai. Sì, sì, sì. Ascolta, no, invece... no, belli, belli. In realtà sono sonorità che mi piacciono. Sì, sì, quindi... sì. No, diciamo che credo, a me come a te, possiamo dire, insomma, che poi alla fine va bene ascoltare tutto, quasi tutto, dai. Sì, io, siamo, cioè, quella generazione anche che è cresciuta in realtà con quelle sonorità, Caius, certo. Quindi Stone Age. Certo. Anche la coda finale del grunge, quindi sì, tanta sì, roba, sì sì, sì, sì, sì, di brutto. Sì, poi vabbè, poi siamo cresciuti. Poi siamo, che è successo? Oh, che è successo? Dai, raccontaci un po', no, non per me, per chi ci ascolta, però insomma, poi manderemo pure il podcast e sta roba. E insomma, riracconta quello che già sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici di 25 O'Clock. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ai Colle Luna. Insomma, da dove nasce Pavel? Ecco qua. Allora, nasce. No, allora è divertente, perché in realtà io ogni volta che mi chiedi questa cosa io ti do sempre una risposta diversa. Sì, oggi... vabbè. Oggi ti dirò, no vabbè, in realtà è bellissimo, perché ieri ero alle prove con il mio gruppo Stoner, a proposito di essere stonati, in realtà certo. Stoner, dai, c'è un grande. Gruppo Stoner che è molto, fa delle robe più pesanti, però sì. quella roba lì, sì. E c'erano due ragazzi di Brindisi, provincia, che appunto mi parlavano dei loro ascolti, e questi avevano 25 anni, quindi un bel po' in meno di me, ma in realtà gli ascolti erano quelli con cui sono cresciuto io, certo. quindi A Testa Bassa, tutta la scena HC pugliese, sì. poi vabbè, A Testa Bassa del mio paese, sì. in realtà sì, Homophobic, SLC, Homophobic, sì, SFC, tutta quella gente, poi ci sono tutti i DJ evoluti, ora ci sono i Carne, ci sì, sono sì, i su Disorder, cioè c'è mi sono perso nuova. Un po' sì, dell'attualità me la sono persa, devo dire la verità. Sono i rimescolamenti di gente che comunque già c'era, più qualche nuovo ingresso, però diciamo, invece A Testa Bassa hanno detto stop, quindi non li peccato, perché era veramente una gran band. E niente, quindi dicevo... cioè, alla fine non si cresce mai, perché questa è la cosa bella dell'underground, della musica che non risponde a quei canoni del mainstream, quindi del consumo, che in realtà è una musica ti forma, perché pur non essendoci più tutta quella sottocultura di riferimento che c'era tanti anni fa, e magari io ho visto solo l'alone finale, l'ho visto sia a Bologna poi ne ho decretato la morte completa, anche se c'è ancora tanta musica, ma quella sottocultura attiva è piano piano andata un po' morendo, però rimane quel senso di identità, ma non identità come lo vogliono i fascisti, ma al contrario, un'identità, un senso di aggrapparsi in questo naufragio collettivo in cui non si hanno più delle idee forti, in cui sembra sempre di vivere ogni giorno come se fosse un eterno presente, come se quello che viviamo oggi non ha in realtà delle radici profonde nel passato. E questa identità in realtà i ragazzi di 25 anni dove l'hanno ritrovata? Delle periferie, parliamo di provincia, di Brindisi, Erchie, paesini del popolosissimo sud italiano, dove l'hanno ritrovata nelle stesse sonorità con le quali mi sono formato io a fine degli anni 90, cioè è qualcosa di magico, la musica in realtà lega delle persone, cioè unisce come il cielo, no? Il cielo ci unisce, la distanza terrena ci divide, però siamo tutti sotto lo stesso cielo, così anche le frequenze musicali, è una radio, è il posto migliore, soprattutto una radio libera come Radio Onda Rossa, per dire questa cosa qua, che in realtà le frequenze musicali, queste onde ci uniscono e uniscono anche al di là dello spazio temporale, cioè si può andare anche indietro di generazioni in avanti, quindi noi non potremo mai invecchiare perché ascoltiamo questa musica. Sì, beh, diciamo forse fisicamente un pochino sì, perché beh, fisicamente sì. Però sì, è vero, concordo, perché appunto tanti anni che mi metto non a sedere ma in piedi, proprio a maggior ragione, no? Cioè, io adesso sto parlando in piedi e non a sedere. Quindi vuol dire che non sono ancora stanco, malgrado io, no, tutti gli anni di ascoltarvi e di fare ascoltare le cose che ci piace. Ecco, questo un po' è le cose che ci piacciono. Poi tutto sommato è molto semplice, non bisogna cercare... Cioè, la musica ti può catturare e quindi una volta che ti ha catturato poi basta, la mandi. E ti può catturare in varie maniere, insomma, fra cui c'è anche in qualche maniera la poesia. Io amo molto la musica in italiano perché conosco poco l'inglese, quindi poi la musica è appunto quella che comunque ci piace, però cantata in italiano, perché ti dà forse quel, cioè anche in inglese la puoi anche capire il testo, puoi anche fartelo tradurre ormai, no, da Google eccetera, però quando ascolti le parole e la tonalità con cui vengono cantate queste parole, dall'italiano ti dà qualcosa di più. L'abbiamo già fatta questa domanda, e in particolare nell'ultima, non ultimissima, perché poi ogni tanto pubblichi qualche traccetta, qualche cosa da mandare, sulle piattaforme, qualche uscitina, qualche elaborazione eccetera. Diamanti sporchi di sangue c'ha ormai quasi un annetto, credo, no? Come pubblicazione. E così ci pensavo oggi, dico vabbè, poi si fa una chiacchierata con Pavel, che cosa gli posso dire? Gli posso dire che senz'altro forse il precedente Swarovski era, tra l'altro questo qui l'abbiamo presentato anche quest'estate, però poi risentito a distanza di mesi, il precedente Swarovski insomma puntava più sulla pesantezza estrema del sound e anche del parlato, del rappato sopra, e invece in questo Diamanti sporchi di sangue sei senz'altro più cafone, poi che è un, così detto così sembra un insulto, ce lo vuoi spiegare meglio cosa significa essere cafoni? La cantina è piena di senti, cafoni, no? Sì. No, senti un attimo, questo è Diamanti sporchi di sangue, l'ho fatto sentire solo qualche nota e forse è una delle cose più cafone del disco. Cosa significa appunto essere, è vera questa cosa innanzitutto, cioè questa cosa che ho notato? Sei proprio un goleador, centri sempre il punto, questo lo so, quindi cioè, chiaramente l'hai beccato al centro. Cafone è tra l'altro una parola che chi ha amato l'UX e quindi chi si cimenta con i beat e così dovrebbe mettere come medaglia al petto, perché cioè il cafone è l'UX per eccellenza, no? Poi figurati una persona come me che pur stando qui a Bologna da ormai 24 anni non è riuscito a perdere l'accento, cioè figurati, io lo sento questa cosa qua del cafone, e non è una posing o roba del genere, cioè una roba che ti viene abbastanza anche spontanea. Styling profiling, appunto, quindi tutta quella roba là è un altro aspetto di me. Io penso di avere un po' di problemi di personalità, nel senso che non ne ho mezza, ma ne ho, quindi non pezzettini di ogni personalità, ma ne ho tante complete, quindi a volte dipende dal periodo, una prende il sopravvento sull'altra, a volte sono tipo in congressi, in assemblee. Ho sicuramente una parte più interessata alla poesia, alle cose magari anche più ragionevolmente in rima, in italiano, appunto, perché come dicevi giustamente tu, l'italiano per noi che siamo madrelingua italiana è una roba che arriva molto diretta, anche se ti devo dire la verità, una volta che si entra a qualsiasi testo, una volta che lo capisci ti coglie, però chiaramente certe inflessioni, certi lessici così uno li sente propri, soprattutto perché è la lingua con la quale ci siamo formati, si sono formati i nostri pensieri. Io ad esempio adoro anche Claudio Lolli, adesso non dirò mai più adoro Guccini, anche se sono cresciuto un po' con Guccini, perché le ultime sparate ci sembrano fuori luogo, sì. Guccini con queste ultime ne aveva già fatte, ma questa qua veramente messo una croce sopra. D'altronde anche siamo anche tutti figli dei CCCP, insomma, e Giovanni Lindo Ferretti l'abbiamo buttato nella pattumiera tempo, insomma, quindi va fatto, perché non bisogna avere idoli e soprattutto a un certo punto anche bisogna uccidere determinati padri putativi. Certo. Comunque in caso di Guccini non ce ne faremo, non verseremo lacrime, però ci conteneremo ad ascoltare la locomotiva, eccetera. Sì, però non ne parleremo più bene, ecco, facciamo certo. Così. No, c'è Claudio Lolli così, però a fianco c'è anche l'UX, c'è tutto un sottostrato anche bello HC, perché l'HC non deve essere solo la sonorità, ma è proprio un'attitudine. E quindi sì, poi parlare di Peroni, parlare di... In realtà io molte volte d'estate, pur essendo stato straight edge per quasi 5 anni, devo dire la verità, la mia estate è quella, cioè mi becco con due o tre amici, quindi ci beviamo a Peroni fredda, perché giù esiste solo quella, la chiamano croccante, all'epoca mia non si chiamava così, però va bene, è quella, ghiacciata, si beve, si chiacchiera e si parla veramente di robe... easy, perché alla fine non è che dobbiamo sempre stare a e si gode del sole, perché insomma ce l'abbiamo sto sole, ce l'abbiamo. Tutto prima che ci cuoccia, prima ce lo godiamo, che ci cuoce, certo, prima che ormai il clima cambi completamente, diventi un forno. Madonna, ormai ci godiamo il maggio, diciamo, dai, il maggio e giugno. La vita è così, bisogna godere di quei piccoli momenti di gioia in una collana di tristezza, però poi se più gioia riesci a tenere, alla fine se ti guardi, ok, ne ho avuto una vita anche di gioia. Poi chiaramente questo è un discorso ozioso, perché come hai detto giustamente tu, c'è la rabbia nelle piazze, c'è la rabbia nelle strade per l'orrore che quotidianamente accade in questa società che si è accappottata, ma che poi è sempre la stessa, che poi cantare, no? Avere un microfono in mano, o nel caso tuo anche portare avanti con anche una certa cocciutaggine una trasmissione che comunque è notturna, comunque non è di temi semplici né di sonorità così easy listening. Comunque dico, avere un microfono in mano, che sia radio, che sia per cantare, ti dà anche un sorta di privilegio poter parlare di determinate cose che molte persone ogni giorno magari sentono e non riescono a veicolare. Quindi ha un senso continuare a fare queste cose anche in un mondo in cui va tutto in malora, magari l'intelligenza artificiale, poi ci sembra sempre che ci sia qualcosa che va male, ma alla fine per una persona che non è nata con le spalle coperte, noi usiamo ancora questi termini per i proletari, certo, per le proletarie, certo. La vita è sempre che poi stata fa, questa fa rima con cafone proletari, tutto sommato, poi inteso sì, come sì, lo ne parlavamo prima. Ascolta, off topic ma manco tanto, mi dicevi che pure a Bologna c'è stata la manifestazione? Sì, sì, sì, c'è stata una fiaccolata che è finita in Piazza Maggiore. Chiaramente queste cose qua politicamente puoi ragionarci fino a un certo punto, perché purtroppo in Italia femminicidi, lo dice proprio la statistica, sono quotidiani. Poi ci sono quelli che sfondano l'incuria, il disinteresse della gente normale, tra uso normale usando delle virgolette, però per intenderci, e alcuni che fanno più notizia purtroppo, perché sono anche più brutali così, altri che passano un po' più in sordina. Ma sai, poi la cosa delle notizie è qualcosa di così, proprio su quello riflettevo io, insomma, perché adesso io non saprei, non conosco le statistiche onestamente, quelle precise, quelle sicuramente tutto l'ambito sociale incide sul soprastante patriarcato, no? Diciamo, su questa cultura di merda che ti porta a considerare appunto le donne come una proprietà, una roba per cui il tradimento, per cui il rifiuto diventa qualcosa di intollerabile, inaccettabile, non si capisce perché, insomma, proprio questo senso di possesso, vabbè, senza scendere a quello. Però come dicevi tu, giustamente, poi c'è anche il contrario, nel senso che se da una parte è bene che queste cose diventino notizia, no? In qualche maniera si sappiano, ed è così è stato, per dire, su un altro ambito come quello degli incidenti sul lavoro, no? Prima si chiamavano morti bianche, per cui la gente moriva lavorando e veniva dato quasi per scopo, vabbè, stavi a lavorare, è successa una disgrazia, no? Certo, certo. Un po' questo, e quasi pure sulla stessa vicenda dei femminicidi, cioè non si va poi che poi si chiamano femminicidi da qualche anno, cioè da quando è stato in qualche maniera messo a fuoco il carattere di genere delle uccisioni, degli omicidi sulle donne, e quindi femminicidi. Dall'altra parte però entri in qualche maniera dentro questo tritacarne che è la comunicazione mainstream, per cui alla fine c'è quella morbosità, no? Che poi deve fare notizia, sì. Che diventa, che tanto notizia è merce, per cui ancor più nel mondo prima dovevi acquistare il quotidiano, no? La mattina successiva, e sicuramente la notizia strillata era era importante, per cui si faceva il titolone o il titolo effetto sul giornale, che ti portava a comprare una copia invece che un'altra. Oggi invece è proprio immediato, gira sui social come sui portali dell'informazione mainstream, e quindi non lo so, non so come rapportarsi io, ecco, con questo modo di poi esporre la realtà, che poi non diventa più realtà, ma non è più realtà, ma è notizia, appunto, è commercio, tutto sommato. Sì, dipende, si fa notizia, no? Poi dice sotto la notizia niente, anche perché, scusami, cioè, non so se stavi aggiungendo altro. No, assolutamente, no, hai fatto benissimo. Cioè, credo quest'anno ci siano stati chiamati femminicidi almeno 13, non so se anche di più, 15, no? 13 se non sbaglio. Comunque ci sono poi tutte le violenze che sono, certo, spesso quella domestiche. È la parte estrema, chiaro, la punta dell'iceberg, come si dice. C'è una grande piramide sommessa che nessuno parla, c'è la minaccia, c'è, a volte non succede niente perché magari una persona viene meno anche tra virgolette alla propria dignità, quindi non risponde, poi c'è tutto il catcalling, cioè c'è una marea di roba che proprio la società ne è intrisa, ma questa società italiana, ma non solo, poi noi siamo cattolici, quindi abbiamo anche questo senso di doppia morale, no? Mm-hmm. E appunto da un po' per il lavoro delle compagne, della gente che un po' ha preso in mano, anche spesso è stata criticata, è vero, ci sono anche poi tutta una serie di vicoli ciechi in cui si finisce quando poi si diventa molto personalisti su un tema soltanto, perché purtroppo è tutto interconnesso, cioè sarebbe bello riuscire a interrogarci di un tema, a risolverlo in una società invece che è corrotta, putrida dalle basi, però appunto ci sono sotto i femminicidi, anzi attorno c'è il silenzio delle persone, c'è il disinteresse, appunto dicevo l'omertà, ci sono le violenze quotidiane, c'è una difficoltà di una rete che fondamentalmente manca, che è quel senso di comunità e di collettività di cui parlavamo tempo fa nell'altra intervista. Come si fa in una collettività manchevole, no? Noi siamo tutti molto individualizzati, forse neanche individualisti, perché molti di noi è sicuramente quelli che ci saranno sabato, i compagni e le compagne che ci saranno sabato, è gente che sta male a naspa in un mondo solo di solitudine e vorrebbe altro, però i tempi tecnici, quindi il lavoro, le distanze, i trasporti, la difficoltà ci tiene distanti, no? Cioè, se pensi alla parola compagni, che sarebbe dividere il pane, no? È difficile anche trovare momenti in cui si può stare insieme per cenare, e quindi è proprio quando finisce una rete, quando una persona può essere isolata, che gli puoi fare qualsiasi cosa. Nel caso delle donne, in una società patriarcale ultrasessista come la nostra, è proprio il femminicidio è l'atto finale, quindi bisogna giustamente parlare, bisogna essere incazzati, ma c'è tutta, e bisogna forse collegarlo pure a tutta, come mi è sembrato, noi maschietti, un maschioni, un maschiacci, un come ci vogliamo definire, oggi ce ne stavamo, mentre il corteo passava qua sotto praticamente le finestre della radio, ce ne stavamo rintanati in radio, perché era un corteo separato, e quindi non eravamo giustamente accettati, insomma. Tra l'altro so che nell'ultimo corteo c'erano state pure delle storie, insomma, con un sacco dei pischelli che comunque andavano dentro la manifestazione, insomma, è questa cosa, specie le compagne più vecchie, diciamo, meno abituate, più legate a una tradizione di separatismo schietto, insomma, si trovavano un po' in difficoltà. Cercando appunto di spiegare che i maschi o devono andare in coda o devono stare ai lati o proprio stassene a casa, che forse è ancora meglio. Che c'era poco da guardare, insomma, e molto da ascoltare. Però insomma mi è sembrato di capire dalle finestre della radio che appunto un po' questi temi si interconnettevano, cioè si connetteva appunto la vicenda del patriarcato con quella della guerra, con quella dello sfruttamento, eccetera, insomma questo è quello che si coglieva almeno dalle corrispondenze dalle finestre ed è un bene così, sono contento che vada così. Senti, l'altro giorno ero ho sentito Pennac, che è famoso scrittore francese, il signor Malussen, eccetera, esatto, diario di scuola e così via. È molto molto ben voluto a sinistra, lui stesso ha preso sempre delle posizioni di sinistra, e parlava appunto male di Trump, parlava di queste cose qua. Poi vai a vedere Pennac, io questo non lo sapevo. Pennac è uno dei firmatari dell'appello di Serra, cioè quindi di armare la pace. No, ma non è, c'è un precedente, perché se ti ricordi nel 99, quando ci fu la guerra di Jugoslavia, era un interventista. Anche lì, io non... No. Questo me l'ero perso, mia colpa. Sì, e quindi ho detto: poi, ma insomma, come fai a parlare di bambini, di infanzia, di educare? Se poi armi, le armi a chi vanno a finire poi? Cioè, se pensiamo ai palestinesi, la maggior parte non hanno 18 anni, quindi a chi è che va a ammazzare? Cioè, è assurdo fare persone di serie A e di serie B e vantarsene da sinistra, cioè farlo con questa ipocrisia. Infatti il 6 aprile, per fortuna, non starò a Bologna, qui ci sarà la piazza di questi sepolcri imbiancati della sinistra, che rifaranno lo spettacolo che hanno fatto a Roma. Il triste funerale all'Europa, diciamo. Mamma mia, veramente. Ascolta. Meno male che noi siamo cresciuti col punk hardcore. Ritorniamo sul pezzo. Dai. Allora, cosa succede quindi? Allora, Pavel, quante volte è venuto a suonare a Roma? Così, domanda, quante volte hai avuto occasione? Nella forma Pavel, ovviamente. Poi ti dico una cattiveria. Nella forma Pavel, credo al traffico, ho suonato con Metal Carter e Cuba Cabal. Ah, bene. Quindi sarebbe la seconda botta. Sì. bene, siamo contenti di questo. Quindi chi si è perso Pavel la prima volta o chi non se l'è perso e quindi no, ma se lo sono persi tutti perché c'erano tipo 18 paganti quella volta, no, purtroppo tremendo. No, no, erano tutti amici miei. Erano tutti amici miei, per Cuba e Metal Carter non c'era nessuno. Sti 18 rivengano comunque. Vengono, sì, sì, già li ho presi a uno a uno. E speriamo si portino tanta altra gente. Invece no, Pavel merita. Allora, due notizie così, tanto noi appunto andiamo in diretta, ma avranno capito compagni e compagni ascoltatori e ascoltatrici che si va avanti a braccio proprio totale, perché l'ora è tarda e dimmi quando vuoi che smettiamo, tra l'altro, che vuoi andare a dormire, dimmi una parolaccia e cacciami. Andiamo avanti a braccio, probabilmente ci sarà pure la cena, e questo lo dico non a tuo vantaggio ma a vantaggio di tutte e tutte, ci sarà anche la cena vegana e il riso mi sembra che sia alimento per celiaci. Sì, sì, quindi sì. Ci dovrebbe stare tutto, certo. Così, questo va, ti ripeto, era una domanda che mi hai fatto te, però la estendiamo come risposta pure a tutte e tutte quelli che magari di questa roba possono avere interesse, perché sarà la comunità, poi vabbè lo diremo meglio, la comunità tigrina. Mm-hmm. I compagni del Tigrai che ci hanno insomma un comitato qui a Roma che ci preparano la cena, quindi a loro va il nostro più grande ringraziamento e approfittiamo anche di questo spazio per dire questa cosa. E l'altra cosa è una cattiveria invece, perché invece io l'ultima volta che ti ho visto ormai tanti anni fa era con Repressione, quando veniste a suonare allo Spartaco addirittura, se non erro. Mm-hmm. Era Spartaco? Sì, allo Spartaco. Ah, ti ricordi meglio te di me. E te a un certo punto hai dovuto rappare, perché praticamente hai avuto un calo di voce dallo scream che stavi facendo, la scrimmata, sei passato la rappata, perché hai avuto appunto questo problema con la voce. È stato uno dei motivi per cui sei passato poi alla drill. Un po' di politicamente scorretto. Scorretto, vergognati. No, mi è successo due volte in realtà di perdere la voce. Una volta a Roma, una volta addirittura era a Imperia, c'aveva la febbre a 40, non sono riuscito a cantare una canzone, sempre con Repressione, sono andato a dormire in macchina. Però non mi era mai successo fino ad allora, quindi diciamo sei testimone di queste cose rare che succedono. No, in realtà ho sempre amato il rap, lo amavo da ragazzino, solo che mi annoiavano le diatribe, queste robe qua di chi è più real, di chi è più hardcore, all'epoca era chi era più hardcore, e quindi non ho mai approfondito il fatto di come musica, mia musica. Poi ho iniziato a suonare la chitarra, ho scoperto gli Autopsy, ho scoperto il death metal ed è partito un altro mondo proprio completamente, oltre l'hardcore che ce l'avevo sotto casa perché ci suonavano a testa bassa, che organizzavano anche concerti. Quindi no, il rap è nato durante la pandemia, questa idea qua, perché stavo a casa, non sapevo che fare, ho detto ma dovevi suonare sulle basi per forza, perché l'avevo provato già in passato per i fatti miei, ho detto ma fammi provare, in realtà mi è piaciuto, l'ho mandato un po' in giro, tutti mi hanno detto ma guarda che sei un talento sprecato, e quindi ho detto va, sprechiamoci un po'. Così, no, è vero. Poi in realtà con Repressione abbiamo appena ripreso, però mi sono negato, no? Come dici, dopo 10 anni, no, sono 6 anni che praticamente stavamo fermi, abbiamo fatto una data a Imola. Era il 2018 Repressione. Sì, poi ci siamo fermati, abbiamo fatto giusto una data a Bari, perché Pina mi aveva chiesto in ginocchio, no, suona. E abbiamo fatto questa data a Imola con Contrasto, Affluente, uh-huh. Era una bella data, c'era anche Arturo, la band di Torino storica, uh-huh. HC, c'era troppa gente, c'era veramente tanta gente, le prime file sapevano i pezzi, quindi ho detto che okay, questo è un sintomo di vecchiaia, no? No, è stato molto bello. E poi il 12 al CPA a Firenze, però ci siamo fermati, non credo che suoneremo per lungo tempo ancora con la Repressione, però registreremo di nuovo, quindi può essere che chissà per strani eoni, direbbe Lovecraft, magari, che ne so, l'anno prossimo veniamo a Roma. Magari può accadere. Può accadere. Quanti progetti c'hai adesso in piedi contemporaneamente? Allora, Pavel, quello che diciamo attualmente è quello a cui che sto spingendo più, ti di dedichi. Più. Sì, Sand Striker, in cui sono esclusivamente cantante, la band Stoner Doom, molto interessante, dove sono tutti mostri, geni musicali, e facciamo della roba veramente cafona. Non c'è su Made in Italy quello su Bandcamp, la raccolta? Sì, c'è, certo che c'è. Allora certo, vi mando, dai, vi mando, perché non in mezzo a 182 band, insomma, è tosta. Sì, siamo i vermi della sabbia, i Sand Striker. Ah, proprio. Ok. No, mi sa che l'ho pure mandati, mi devo ricordare. Vabbè, poi faccio un interrogale, dai. Andiamo. Sì, poi? E poi, cioè, vabbè, Repressione, però come ti ho detto è una roba sì, così, più una tantum. Crisis Benoit, che è una band death grind in cui suono la batteria e canto. Diciamo, dei gruppi ufficiali sono questi, poi... appunto parlavamo di cafoni, cioè dei progettini con gli amici miei magari di giù, in cui facciamo della roba veramente marcia e neanche ci diamo dei nomi, quindi non li contiamo, però sì, attualmente vabbè, quelli appena che poi, appena poi insomma trovi la maniera. E invece la parte diciamo di autore, di scrittore, continua? Stai pensando di scrivere qualche altra cosa? No. Cioè, no. E allora io scrivo un sacco di roba nella mia testa, perché poi per esempio ho fatto un viaggio di recente, sono stato un bel tour lungo in Germania e l'ho fatto tutto con la Deutsche Bahn Ticket, quindi con la possibilità di questo ticket che costava 58 euro, prima costava meno, ti permette di prendere tutte le metro e tutti i mezzi pubblici non alta velocità e girarti per tutto il mese la Germania. Quindi ho fatto un tour così, muovendomi soprattutto con i mezzi lenti, e quindi avevo tutto il tempo di pensare, vedere. Ho scritto tante robe, me le appunto, ma per me quello che ho scritto, L'aria brucia, è un qualcosa che è solo un atto politico quasi dovuto, no? Per me è stata una necessità mettere un tassello ufficiale di un pezzo di storia che mancava assolutamente. Infatti da quando è uscito, che con Cristiano Armati è stato edito per Red Star Press nel 2018, salutiamo Cristiano tra l'altro, grande Cristiano, diciamo da allora le presentazioni non si sono mai fermate. Chiaro, sono una ogni tanto, perché ormai sono passati tanti anni e quindi abbiamo già fatto il giro d'Italia, però ce n'è ad esempio il 6 dopo Roma, scappo a Padova perché c'è questa presentazione dell'Aria Brucia, quindi come autore direi che non ho grande interesse di però mi nutro delle persone che mi circondano, che sono anche autrici, autori, scrivono di musica, di poesia, e poi da poco magari do una mano quando è possibile, quando qualche compagno mi chiede una dritta per organizzare la proiezione del film Pensando ad Anna, che tra l'altro ho visto che a Roma ha fatto due o tre sold out nelle proiezioni. Sì. Il film, vogliamo ricordarlo un attimo per chi se l'è perso, insomma, penso al nuovo Cinema Aquila, no? È stato, sì, esatto, al Cinema Aquila. Vogliamo ricordare pure questa cosa, che l'avevamo detta in diretta noi, però magari te ce la sai raccontare meglio. Scritto e interpretato e diciamo ispirato da? Allora, ispirato dal libro di Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna, che è una storia interessantissima, che parla diciamo di tutta la storia di Pasquale come figlio di immigrati di ritorno, parla delle istituzioni totali che circonda un proletario, un sottoproletario sin dall'infanzia, parla del dopoguerra, poi parla anche dell'illegalità, ma soprattutto di una sottocultura hippie, dell'odio alla guerra, da lì come poi è sbocciato in tantissime persone, in tantissimi ragazzi che non hanno fatto la teoria politica magari come Togliatti, come tutti i quadri dirigenti di quegli anni del PC, scuole di partito, insomma. Le scuole di partito, i quadri burocratici, ma in realtà hanno esperito e hanno trasformato quella rabbia di cui parlavamo prima in azione, mantenendo però, perché questa poi è una polemica che gira da un po' di tempo, il discorso del fatto che moltissimi generi, per esempio uno a caso Loi, no? C'è tutta una sorta di rappresentazione, quindi Bomber, La Rasata, così, ma anche nel rap, dico un genere a caso Loi, perché non mi piace la musica da Loi, fondamentalmente l'ho preso come, però dico, c'è tutta una sorta di estetica, certo. Però poi manca fondamentalmente il fatto che il proletario non è quello cockney inglese che beve la birra, fa le risse e così, ma in realtà tutta una storia di proletari e sottoproletari che prendevano coscienza da Ventotene, appunto adesso è famoso, quindi dal confino antifascista, Teresa Noce, Pietro Secchia, passando per Sant'Eno Tarnicola negli anni 60, sì. Passando per appunto Pasquale Abatangelo, che anche nelle carceri, anche certo. Nell'esilio continuavano a leggere, si formavano come compagni e come esseri umani. Dice Sant'Eno Tarnicola in una poesia: ci ho messo 50 anni per essere comunista. Quindi è una formazione, il proletario non deve certo. Abbandonare l'idea di anche di autoformarsi, e quindi dire no, è uno stereotipo piccolo borghese che il proletario beve il weekend per dimenticare la settimana di lavoro. Sì, è chiaro, tutto vero, però c'è anche non brutalizzarsi, non abbrutirsi, perché poi questo mondo è l'unico che ci è concesso e questa è l'unica vita, possiamo essere migliori di quello che ci costringono a essere. Dunque, scusa, tornando al punto, Pasquale Abatangelo ha scritto questo libro in cui c'è tutta anche la storia di Nap, c'è il percorso, è un libro molto interessante dedicato a sua moglie Anna, che era una compagna molto molto combattiva, che l'ha seguito nelle carceri speciali, non solo, è una compagna con la C maiuscola. E poi Tommaso Aramini e altri compagni, attori professionisti, attrici professionisti molto bravi del napoletano, hanno fondamentalmente girato e poi interpretato questo film basato sul libro, che si chiama Pensando ad Anna, che è girato soprattutto nell'ex OPG di Napoli. Mm-hmm. La cosa interessante, e poi finisco con questo pippone perché magari vi annoio tutti e tutte, è il fatto che questo film è molto anomalo ed è girato con una tecnica dell'etnografia performativa, quindi in realtà c'è Pasquale Abatangelo anche come attore che dialoga con il suo, cioè Pasquale vero che dialoga con il suo attore che interpreta Pasquale Abatangelo. È una roba molto teatrale alla Brecht, in cui si entra e si esce dalla scena, dal girato, e al contempo è molto cinematografica, perché ti assicuro che io quando l'ho visto, pur conoscendo bene Pasquale, conoscendo bene il libro, ho visto la prima a Firenze, ho pianto, come se fosse un film di cui non conoscevo il finale, perché è davvero travolgente a livello emotivo. Sì, io lo consiglio tantissimo, e quindi sto dando una mano, quando può capitare, con dei compagni a tappare qualche buchino, magari qualche città che non ha ancora proiettato il film. Però ecco, io di libri miei non credo che ne produrrò più. Bene. Mi basta quello. Bene. Allora, io penso che abbiamo stordito tutte e tutti. Tutti abbiamo stordito. Quindi ti mandiamo a dormire, perché tra l'altro ti vogliamo bello riposato per la serata di sabato prossimo, del 5 di aprile. Spero che questa serata serva anche a creare delle connettività, perché poi appunto tanta differenza, no? Tanta eterogeneità nei principi di partenza di tante persone, di tanti gruppi, ma anche della comunità, delle persone che stanno intorno alla radio, dei compagni e delle compagne della radio che saranno lì. Spero che appunto poi quello che è la scintilla alla fine, e se vuoi anche il pretesto che c'è nel voler organizzare serate, io devo dirti la verità, anche io come per te per i libri mi sono un po' stufato, diciamo, di organizzare serate, o almeno questo è quello che dico in giro e che dico a me stesso. Poi quando mi ci ritrovo in mezzo, invece, poi succede che ti esalti per sta roba e ne sei felice e contento che ancora appunto sei in grado di spingere su queste cose. Sì, dicevo, spero anche che sia un momento di comunque di incontro fra persone, fra appunto fra quegli individui di cui parlavi te prima, e che finalmente possano nascere tante scintille, tanti incontri, e magari da persone creative con voglia di fare come te, e ce ne sarà, ci sono anche altre, ti assicuro, di persone. Ci saranno persone appunto che e compagni e compagne che hanno voglia di far cose, che magari non nasca poi qualche progetto comune, qualche incontro, qualche sintonia particolare. Ma speriamo bene, io sono positivo rispetto a questo, anche perché avete tirato su secondo me una bellissima serata. Va quindi bene. Ci vediamo sabato. Ok, allora ringraziamo Pavel e ce l'andiamo anche a ascoltare. Grazie, perché a abbiamo parlato, chiacchierate e basta, invece mandiamo un po' di musica da adesso in poi e poi ce ne andiamo a nanna pure noi. Grazie di nuovo. Ciao, grazie a te, grazie ciao, a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Come fossero gelati, affogati da amarezza, amarene, cioccolato. C'eravamo tanto armati, tanto che tu mai l'amato. Pavel Sanguino. Opera 10, numero 3. Settle sempre certo. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Nello spin a fuoco, avec disinteress. Da Roma e a Roma e provincia, invece. In dub a Roma, Terni, Perugia.